Eccoci qua. Non sentivo la mia voce. Che cosa è successo? Avevo un problema sulla mia stessa voce. La dimanche. Sì, ma infatti no, ma perché secondo me non funzionano queste cuffie, cioè perché proprio non sento niente. E poi ne troviamo altre. Perché rompete persone che vengono durante la settimana? Perché ci rompete le cose e poi noi arriviamo la domenica e le cose non funzionano? Bene, questa è la parentesi polemica del giorno. Veramente. No, ecco, no, un pochino ora si... Vabbè, niente, non mi importa. Vado lo stesso. Allora, bentornati, bentornate. Fuga del gatto, domenica. Che è? 7? Bivone, sì, 7. 7 aprile, 7 sì. aprile. È un po' che non ci si sentiva. Vi siamo mancati, Con questi microfoni. Gente che non dormiva la notte, ragazzi. E ora, tra di ora. Forse ora dormite bene perché vi facciamo addormentare noi. Sì, infatti. Il ripiglino della domenica pomeriggio, dai, questo weekend è stato intenso, anche questo weekend, un sacco di roba. Madonna, questo weekend è stato un massacro, però un bel massacro. Beh, sono state sì, tante sì. cose molto intense, belle, e tante iniziative, tanti concerti. Ricchi premi e cotillon, per chi arriva in fondo al weekend vince sempre qualcosa, vince la fuga del gatto. Esatto, lo so per dire, guarda. Quindi all'inzoppo bruciate, come si dice. Esatto. Cioè non so se siete riusciti ad arrivare in fondo al weekend nonostante tutti i bagordi e vi puppate pure la fuga del gatto. È così chiaro. Chiudete in bellezza, andate a letto e non ci pensate più fino a domani. Ma infatti. Domani ma... è un altro giorno. Ed è un tremendo lunedì, quindi peggio di così direi non può andare. Eh sì, è un tremendo lunedì, ma come sempre non ci pensate, pensate a questa domenica che ancora non è finita fortunatamente e la potete comunque chiudere in bellezza con la fuga del gatto. Sta uscendo pure il sole, guarda, ma le certo, gatte portano il sole. Ma infatti, perché siamo arrivate noi. E i gatti guardano nel sole. Eh sì, e oggi abbiamo per voi, proprio per festeggiare questa domenica che siamo tutte così un po' alle grotte, abbiamo una puntata non come per niente alle grotte. No, dai, poteva essere molto peggio. Sì, poteva piovere, poteva essere. No, ma secondo i nostri standard. Ah, beh, certo, per i nostri standard poteva essere un canto gregoriano, invece vi è andata bene. Potevamo fare la puntata sui funerali, non Madonna, lo so, sulle marce funebri. Invece no. Però allegrissime danze. Ora voi pensate. Serete, no? Il balletto, tutte le... No, le danze, quelle rinascimentali. Quelle vere, ragazzi, perché basta fare le trasmissioni mainstream. Noi sempre siamo, secondo me siamo allora, ci eravamo un po' sdati, secondo me, troppi balletti, troppa roba. La musica abusata. La musica abusata, le ultime due puntate sulla musica abusata. No, ragazzi, rimettiamoci subito in riga, No. No, qui siamo nerd. Qui siamo nerd, nerd nell'anima, e i nerd della musica classica ascoltano la roba che nemmeno quelli che ascoltano la loro musica classica vogliono ascoltare. Per niente. Cioè la musica antica, perché oggi siamo un po' più antichi come già. E quindi... non è colpa mia, cioè non del tutto è colpa mia. No, è una serie di sfortunati eventi, per citare un bellissimo libro e un non tanto bellissimo film. Sì. Una serie di sfortunati eventi ci ha portato a decidere che oggi vi accollavamo due forme in realtà di danza e quindi di musica, che sono però sicuramente insomma riferite a periodi abbastanza antichi della musica, anche se poi sono forme che rimarranno nel repertorio musicale classico e verranno poi usate in realtà fino insomma durante i secoli. Però sicuramente insomma ecco, queste due forme musicali, queste due danze sono riferite sicuramente insomma al barocco e poi al post barocco fino al 1700, diciamo tutto. Vorrei dire, quindi insomma, fin dal 500 al 700 in auge principalmente. Sì, poi vedrete che insomma vi faremo anche sentire degli esempi perché raramente devo dire, però in qualche caso queste danze sono state riprese e riusate anche dopo, anche nell'Ottocento, sì, eccetera. Appunto, anche perché sono forme musicali che quindi vengono poi riprese e magari un po' modificate, nel senso un po' usate in maniera diversa in varie. No, in vari campi della musica classica, no? Anche perché non nel balletto, nell'opera. Però sicuramente ecco, se uno ci ascolta per la prima volta oggi, ecco, questo qui è un tema un po' da, se vogliamo, cioè ascoltabile da tutti, ma forse un po' da intenditori. Cioè gente di classe. Non è vero, che noi non ci ascolta, quindi praticamente. Ma infatti noi stiamo sorseggiando il tè come io il nostro solito. Io sì, c'ho il termos, è vero. Perché... No, il termos, dovevi dire la teiera con i pizzi. C'ho la teiera, quella English, China, la porcellana cinese del 1870. È chiaro, è chiaro. Bene, per cui direi che appunto... Allora, sì, due forme di danza. E partiamo dalla prima, la prima me la sono accollata io un po', brava, che è la pavana, perché subito... Così. Allora, questa effettivamente è una danza che, se la seconda lo vedrete, è una danza insomma un po' appunto non proprio... Cioè sì, è ascoltabile adesso moltissimo, ma insomma non è proprio il nostro gusto, il nostro orecchio non è proprio abituatissimo a questo tipo di musica. Ecco, la pavana proprio per niente. Cioè con la pavana aiuto. No, no, per niente. Partiamo subito col più difficile. Sì, no, soprattutto non sembra una danza, nel senso che se voi avete in mente la danza, quella... No. Sì, non lo so, anche dove sotto cassa. Ah no, vabbè, niente, quello ciao. Cioè dove comunque ci si muove. Ecco, qua ci si muove appena. Cioè, dire che ci si muove è comunque abbastanza un eufemismo. La pavana è una danza di corte, innanzitutto, e quindi stiamo parlando del 500, anche 600, ma insomma, principalmente si sviluppa nel 500, e quando intendiamo di corte, intendiamo una situazione piuttosto ingessata, insomma, no? Non che dopo. Però ecco, nel 700 c'era già molto più, sì, brio. Già i numeri nel 700, già nel 500, immaginate, insomma, la corte rinascimentale, non è che la gente proprio si spogliava in mezzo alla corte, si butta... No, per niente, si era molto ingessati, molto, insomma, le danze erano qualcosa di molto, se avete mai visto... Forse in realtà... Cioè, nei film si vede. Ma anche. Sì, ma tra l'altro io pensavo anche a una roba molto più folcloristica e trash. Cioè, in realtà, vivendo in Toscana, vi sarà capitato, no? Cioè, di tutte quelle sagre, chiaro, le feste nei paesini, dove a un certo punto arriva qualcuno vestito in costume. Come un cretino, sbagliando completamente il costume dell'epoca. Con l'orologio, sì. Quasi sempre. È con un liuto, tipo finto liuto. Sì, cioè, che poi in realtà è una chitarra. Certo. E si muove, magari, e fanno delle danze rinascimentali. Io vi devo anche confessare, ora tanto qui non ci sente nessuno. No, infatti, siamo tra di noi. Che da piccola mi è toccato. Lo so. Mi è toccato. E questa cosa ti ha segnato. Molti, se guarda, mi sono diventata. Guarda la situazione. Mi è toccato fare il saggio di fine, non mi ricordo se seconda o terza media. Lo sapevo, vestita, c'era qualcosa. Tra l'altro a Mondeggi. Vabbè, dai, niente. Cioè, non... Un destino. Destino è quel che è. Sì, e quando ancora la villa, il comune la usava e non la lasciava deperire, non la cercava di svendere ai privati. Ecco, e io ci ho fatto il saggio di seconda media. Scusa, no, vestita da deficiente. Sì. Bene. Sì, facendo una pavana, secondo me. E poi me. Fa anche finta che non gli è piaciuto, capito? No. Capisci a volte la rimozione. No, non mi era piaciuto perché il mio costume era brutto. Certo, ma ovvio, a parte questo. Se fosse stato bello, figliava bene. Certo. Va bene, e mi ricordo però, ho conservato questo ricordo, là, non perché volevo raccontediarvi con i miei ricordi in infanzia, ma ci mancherebbe. Un'infanzia traumatica. Ma ci mancherebbe. No, ma perché vi volevo dire che mi volevo collegare dicendo che i miei ricordi proprio mi portano appunto alla mente che era una danza lentissima. È ecco, questa cosa è fondamentale. La pavana è lenta, i movimenti sono impercettibili, ritmica, ok, ma comunque tutto lentissimo. E, il metro è binario, e già quindi ci dice qualcosa. L'andamento è detto moderato, sicuramente, già mi sembra un eufemismo. E insomma è la danza che ha sostituito nel XVI secolo la bassa danza cosiddetta. Poi la pavana si sviluppò, come dicevamo, principalmente nel 500 e nel 600, e poi un po' venne ripresa, ma pochissimo, però insomma qualcuno la riprese in seguito, come poi lo vedremo. Già dal 700, quando se ne parlava, il nome veniva fatto derivare dallo spagnolo pavone. E quindi insomma si attribuiva la nascita di questa danza alla Spagna, ma in realtà è un po' un falso storico, perché in realtà non c'entra assolutamente niente. Non solo il nome non deriva dal pavone, ma manco deriva dalla Spagna, probabilmente. Quindi antropologi musicali, insomma, tragedia, praticamente rubano lo stipendio, cioè sì, come funziona, sì, o perlomeno poi insomma le cose chiaramente erano mischiate, probabilmente ben più che adesso, però insomma sicuramente l'etimologia non veniva dal pavone, ma viene da una forma idiomatica di Padova, ovvero alla Padovana, al modo di Padova. Ah, vedi, a Pada si divertivano più nel 500 che ora. Eh sì, sì, le risa, sì sì, lo sentirete proprio le risa. E, è la danza aristocratica per eccellenza, la Pavana, e insomma trionfa un po' in tutte le corti italiane ed europee, ed è in realtà più che una danza, si potrebbe definire una passeggiata cerimoniale, ecco. Eh già. Ecco, è un po' più così, dai. Comunque è bene che hai detto, cioè, che facciamo la Pavana prima, così dopo la sciaccona sembra la disco dance. Sì, esatto, anni 70, funky. No, sì, perché almeno ho detto li stronchiamo subito. È no? Sul nascio, sì, se uno oggi dice, oggi ho deciso che comincio ad ascoltare la Fuga del Gatto, e bam, dice, no. Così non ci ascolteranno mai più. Esatto, esatto, sì, perché siamo così vivaci. E, beh, fondamentalmente, insomma, alla Pavana era affidato un po' il compito dell'apertura del ballo di corte. Quindi in realtà era la runway. Sì. C'è in effetti un po' una ragione per cui questa danza è così ritmicamente monotona, ecco. È perché era un po' un incipit, una sigla. E quindi all'inizio entravano i personaggi principali che con questo incedere solenne, però un po' che ammiccava un po' la danza, davano il via poi dopo alle danze, e dopo seguiva generalmente la gagliarda. La gagliarda, il nome dice tutto. Che è una danza che non vi faremo sentire perché è troppo, troppo gagliarda. Per oggi è troppo, per oggi. Esatto. Ce la possiamo fare. Esatto. E, allora, perché sappiamo qualcosa, non tantissimo, ma insomma sappiamo qualcosa della Pavana? Fondamentalmente, grazie a... Ora, qui io ho dei dubbi su come si pronuncia, comunque diciamo Tuano o Tunot Arbaud, perché io non ho ben presente la pronuncia francese, era talmente diversificata, il francese antico, perché si passava dal provenzale a Languedoc, Languedoil, il bretone, l'occitano, insomma ce n'era di mille, quindi... chi lo sa mi perdonerà. E in ogni caso Arbaud, diciamo almeno il cognome, su quello sono abbastanza convinta, un compositore e un teorico della danza del Cinquecento, il cui vero nome era Jean Taboureau o Taboureau, chissà, che era anche un prete, fra l'altro, cattolico, che però si dilettava di danze. Lunghi preti, guarda caso. Guarda caso. E che ha scritto questo trattato che si chiama Orchesiografie, che detta così sembra una cosa brutta, ma sì, orchite. Un po', sì. No, invece, no, in realtà è derivato dal greco, e comunque è un trattato dedicato alle danze, in particolare le danze in uso in Francia nel primo Cinquecento, ed è il primo trattato che proprio in maniera pratica parla della danza e spiega passo passo come devono essere fatte le varie danze. In questo trattato si illustra la coreografia disegnandola proprio, c'erano proprio disegnetti, i movimenti, sì, c'erano disegnetti, i gesti, le posture, e c'erano questi ometti, c'erano proprio degli omini disegnati che dicevano ecco si fa così, si fa cos'ha, insieme alla tablatura, quindi insieme alla musica, quindi si capiva che il movimento era proprio direttamente connesso. Esatto, e questo non era una banalità perché non c'era insomma al tempo. Quindi scoprivatelo comunque la Pavana. Eh sì. Orchesiografie si chiamava, tracté en forme de dialogue par lesquelles toute personne peuvent facilement apprendre et pratiquer l'honnête exercice de danse. L'honnête mi piace. Cioè, come dire, oh, è onesta, non onesto. È che vi mettete in mente roba strana, perché... Cioè, trattato in forma di dialogo per tutti per tutte le persone che possono facilmente apprendere e praticare l'onesto esercizio delle danze. Bene. Trattato del 1589 e che è appunto, come si diceva, il primo manuale di danza, almeno il primo che indica con precisione i passi che bisogna fare, e oltretutto anche allo stesso tempo anche il primo metodo di tamburo, anche di percussioni. Ecco, questo è interessante infatti, proprio perché comunque certi lasciti, certi trattati servono anche a capire come certi strumenti sono entrati, no, nell'uso musicale e quindi la loro funzione, tipo questo, no? Eh sì. Tipo come, per esempio, in questo caso la percussione, appunto, il tamburo, come si inserisce, perché spesso il bello della musica antica, ovviamente, è che chiaramente è più difficile magari all'ascolto, no? È più ostica all'ascolto, nel senso abbiamo l'orecchio meno abituato, come dice la Mari, rispetto alla musica del 700, dell'800, per non dire, insomma, della fine dell'800. Però chiaramente queste sono le origini della musica classica, in generale di quella era la musica, perché all'epoca la musica era questa, non c'era musica classica e altro, c'era questo. Per cui è interessante, perché ascoltare la musica antica anche da così, da neofiti, da chi non, così, non la conosce, non fa, serve a capire come sono nate in realtà proprio l'uso di certi strumenti, l'uso di certi sistemi, che poi ritorneranno sempre, cioè andranno a costruire la storia della musica classica. Quindi, cioè, non è che se uno sente Beethoven e Mozart, se non ci fosse stata questa roba qua, ciaone, nel senso, è chiaro che poi il gusto è completamente diverso, passa del tempo, però la musica antica, a me almeno, è sempre sembrata così, da veramente da ignorante della musica antica, perché non sono ferrata, però mi ha sempre servito per capire le origini, no? Per capire meglio da dove, ecco, come mai certe cose poi si sono consolidate, si sono... Ma non solo, guarda, ora al di là della, forse nella Favana si individua un po' peggio, però nella Sciaccona molto di più, cioè, ho anticipato, spoilerato la prossima danza, non solo nell'Ottocento, ma anche nella musica moderna, sì, contemporanea, sì, certo, pop, rock, chiaro, nella Sciaccona tanto, sì, beh, certo, poi Bach, poi in particolare, però sì, ecco, mi ha sempre piaciuto, vabbè, io amo la musica classica, però in generale credo che la musica antica, no, possa sempre sembrare un po' più strana rispetto a quella che si sente, che siamo più abituati a sentire, appunto, Vivaldi, Mozart, Beethoven, insomma, ognuno ha quei suoi gusti, però in realtà è proprio, forse ci vuole un pochino di più per capire, cioè, diciamo, ci vuole uno sforzino di più, però poi è molto bella, non vuol dire nulla, ma insomma è molto, da molta così soddisfazione proprio all'udito capire, ma certo, capire da dove poi viene le origini di una cosa, no? No, poi se siete dei poveri di spirito continuate a sentire solo Verdi. Vabbè, ma quello è un problema, devo vostro dire. Insomma, ognuno ha i suoi gusti, però infatti, tanto voi, noi Verdi non ve lo mettiamo, per cui c'è problema. Quindi, dicevamo, insomma, dopo questi trattati che dicevamo, vi faccio ascoltare un primo esempio di Pavana, probabilmente la più famosa, non è che, insomma, ce n'è mille di esempi che vi posso far sentire, perché purtroppo, come, insomma, ci lamentiamo praticamente tutte le puntate, la musica antica e barocca è completamente dimenticata e trattata malissimo. Proprio per quello si diceva prima, proprio sì, perché la musica venuta dopo, quindi 700-800, è diventata molto più mainstream in un certo senso. Sì, e da qui la puntata sulla musica abusata, studiatela, sì, anche perché ce ne sarebbe, cioè, nel senso, non è che non ce ne sono, di Pavane e di Sciaccona ce ne sarebbero miliardi, ma insomma, se poi le andate a cercare avrete delle difficoltà. Trovate sempre quelle un po' più famose. Sì. Questa è, o non che la più famosa, ma anche un brano che mi ha fatto scoprire molto di recente. C'è stato questo in realtà, appunto, come dire, non era voluto, ma per l'appunto è andata così, che proprio di recente mi hanno fatto conoscere un amico che è impiantato in Inghilterra e che saluto, chissà, magari ci sta ascoltando. Perché no? È un nerd come noi, e insomma mi ha fatto conoscere questo brano, e quindi che bello, coincidenza vuole che ci stia benissimo in questa puntata, che ve lo possa propinare. Si chiama questa Pavana Belle qui tient ma vie, anche qua una pavana dell'inizio del 500, che viene riportata proprio nel manuale che citavamo prima di Arbaud, Orchesiografie. Madonna, è difficilissimo da veramente dire. Veramente, io non ci provo neanche. No, infatti. E anche qua io non sono tanto riuscita a capire se l'autore è proprio Thoinot Arbaud stesso. È probabile, in realtà, anche se alcuni invece lo citano come, citano questa pavana come anonima, però invece è probabile che sia proprio sua. Comunque è una pavana per quattro voci accompagnate da un tamburino, così cita originariamente. In realtà le versioni che troviamo registrate quasi mai sono così, cioè è difficile che voi troviate quattro voci e un tamburo, che in realtà è com'era originalmente. E con un perché lo sentirete, il tamburo è proprio quello che dà il senso della danza e che dà il ritmo per i passi, anche perché essendo una marcia di fatto, certo, più che una danza, e se non c'è il tamburo è un po' un casino. Però in effetti è difficile trovarla con il tamburo e quindi vi faccio ascoltare questa versione di Jordi Savall, diretta da Jordi Savall, che quindi essendo il guru non gli si può dire niente, nonostante non abbia il tamburo, è un po' vabbè, però è un riarrangiamento diciamo comunque bellissimo. Ecco, sì, consiglio per l'ascolto, ricordatevi sempre appunto, come dicevamo, quando ascoltate la musica antica, di contestualizzarla e quindi di, no, di pensare che l'effetto che fa è sempre un po' più... è un po' diverso chiaramente dalla musica che verrà dopo, e quindi sembra un po' più scarno forse anche a un orecchio, un po', no? Sembra più essenziale magari, però dovete pensare che questa è la preistoria di quella che si considera la musica classica, insomma, qui, no? Sì. Eh sì, secondo me siamo veramente all'archeologia, cioè non ti dico all'archeologia, ma insomma... meglio l'archeologia del sì. Lo so dopo, ma vabbè, l'archeologia magari preferisce. Certo, Indiana Jones. Va bene. Sous-titrage Société Radio-Canada. tutta vita. Benissimo, bene, quindi abbiamo perso anche quei due ascoltatori che avevamo. Grazie Mari. No, ma, scusate, ma cioè, non è che le cose belle devono essere per forza alle grosse. No, e né mai facili, ci mancherebbero. Peraltro, perché farvi sentire Mozart? No, facciamo sentire una favana del 1530. Certo. Peraltro, volevo anche dire che prima di noi la regia... Sì. No, non sapete cos'era. Comunque, diciamo che la bobina, ecco, chiamiamola con il nome suo. Bene. La bobina, che notoriamente, insomma, gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno di Radio Wombat, ormai ne sono consapevoli, ha una vita propria, no? È ovvio. Dei gusti, certo, eccetera. Sì. Oggi è giornata New Wave. E va tutto New Wave. Di brutto, non so se avete sentito, c'erano, allora sono andati Diaframma, poi c'erano Joy Division, Smiths e secondo me il pezzo dopo erano i Cure. Quindi praticamente so. Ora c'è la gente a casa e si fa le pere. Esatto. Per rimanere in tema. Finito gli Smiths, bam, pavana. Bene, allora io non ho fatto... Oggi non ho fatto, non sono stata secchiona, non ho fatto tanti compiti come al solito, scusi. No, ma sulle scusi, sulla pavana, scusa mica, cioè no, lì devo studiare io. Però io questa volta non ho fatto tanti compiti, non sono stata tanto brava, ho un po' così, bella, vuoi proseguire o vuoi andare su? Ci siamo. Beh. Non ti preoccupare. No, allora, sulla pavana sono super esperta. Va bene. Tanto c'è due cose da dire. Okay. Poi sulla sciaccona no, su quella deve andare te. Ma vuoi andare sulla sciaccona o no, io un continuo po'? Sulla... Okay, così a dagliene secche. Certo, ormai è cioè, giannata giugolare, vai. Ma sì, ma perché ora voi vi riprenderete, perché visto che vi piace l'Ottocento, a voi... Abbiamo deciso noi che vi piace l'Ottocento, in realtà non lo sappiamo, però visto che No, infatti i nostri bombati secondo me sono delle personcine di gusto e quindi apprezzano anche la musica. Cioè gli amici del Wombat, perché poi insomma non è che tutti... Certo. Sono tutti... Vabbè. Stendiamo un velo. Bene, allora, scusate, oggi è così. Allora, dicevamo, la pavana, cioè non è che comunque piace solo a noi due. La pavana... Mancherebbe, ci saranno altri 4 o 5 nel certo, mondo che piace la pavana. In tempi recenti è stata ripresa da diverse persone... Due. Bene. Due, in particolare Gabriel Fauré e Maurice Ravel. E qui ragazzi, no, cioè se su Ravel non siete pronti dopo 3 anni che vi facciamo la testa così, vi vengo a cercare a casa, perché vi non è possibile. Il bolero, ve l'abbiamo fatto sentire in tutte le salse, quindi Ravel lo sapete, dai. E Ravel, che era una persona di gusto, appunto come i Wombati, ha apprezzato la pavana e ne ha composta una. In particolare si intitola, un'altra cosa insomma piena di brio, si intitola Pavane pour un enfant de Funte, sì, che vuol dire fondamentalmente pavana per la principessa, per una principessa morta. Sì, vabbè, però oggi Mari, cioè, vabbè, dai. Oh, e non è colpa no, mia. No, gli ha preso così, vabbè. È lui, sì, io sì. Non è che... Vabbè. Allora, composizione per pianoforte del 1899, siamo anche alla fine. Moderno, veramente ragazzi, roba moderna. Fine. E dopo orchestrata nel 1910, perché non gli è bastata la versione per pianoforte, ha detto facciamone anche dopo una. Ma Ravel faceva sempre sti numeri, doveva sempre poi... E allora era un Ravel che era ancora pischello, cioè aveva 24 anni. Capito. E studiava al Conservatorio di Parigi e ha composto questa pavana appunto nel 1899 e quello che si ipotizza è che fondamentalmente Ravel intendesse descrivere una pavana che una piccola principessa, un'infanta, per citare la... come si chiamava? Dai, la Storia Infinita. Sì. L'infanta imperatrice. Esatto. Non credo che avesse in mente quello, ma io sì. Una pavana, appunto, che una piccola principessa può aver ballato in tempi passati presso la corte spagnola. E che non gli deve aver fatto tanto bene, visto come è andata poi. È morta. Vabbè. E, sì, bene. Infatti c'è un po' quest'aria, un po' da fantasma, no? Vabbè. E, ma insomma, questa è un po' un'ipotesi. Non è detto che poi Ravel davvero ci avesse in testa sta cosa, ma vabbè, ci sta che. Ma noi ci vogliamo credere. Ma, sì, ma è bello, è romantico, che ci frega. Sì. Quindi sia si parla, Ravel parla della Spagna con un richiamo un po' esotico per lui, perché comunque si sa che i francesi sono appena nazionalisti, no? Qualsiasi cosa che supera il confine è esotico. Palme, lui si immaginava, capito? E quindi sì, quindi la principessa spagnola. Chissà. E che stava a 200 chilometri, tra l'altro. Tra l'altro, tipo, fra l'altro. Bene. Non solo, political correct alla fuga del gatto. Sempre. Ma non solo, c'era anche un esotismo di tipo più temporale, perché comunque si parla di una scelta appunto un po' azzardata, perché dicevamo la favana non è che proprio tutti la... l'ascoltassero e la praticassero. Soprattutto e... nell'Ottocento. No, era un po' passata di moda. E quindi insomma lì il palesemente l'intento di Ravel è quello un po' raffinato, di andare a ricercare qualcosa di estremamente lontano, esotico, che richiami un po' degli echi lontani, virtuosismi di Ravel. Esatto. Ce la voleva un po' tirare Ravel, dai. Tra l'altro, l'altro rimando è che l'insegnante di composizione di Ravel dell'epoca era proprio Gabriel Fauré, che nel, insomma, pochi anni prima, 10 anni prima, aveva scritto lui stesso una pavana per orchestra, l'opera 50, che non vi faremo ascoltare questo giro. Così. Tra l'altro, bene. Siccome era Allegrotta, altra curiosità da dire è che questa pavana Pour un enfant défunt è stata eseguita ai funerali di Proust. Hai capito? Capito? E questo vi no, dà... perché poi mi prendete per il no, culo. No, però c'era chi comunque apprezzava. No, allora, volevo dire che questo potrebbe dare anche il via, il rimando e il via, il rimando alle nostre puntate sulla musica e la letteratura, che vi consiglio di andarvi a riascoltare in podcast, perché fanno le buche per terra. Certo. Oggi sono modesta, non so se sì, hai notato. Sì, vabbè, sì. Oggi. E poi danno anche là le future puntate che faremo in onore di una cosa che succederà, si può dire già, si può pubblicizzare già. Ma sì, di, buttala. Sì, dilla. Ma vogliamo fare dire qui al nostro ospite. È vero, perché abbiamo un ospite. Vieni, ospite. Che non, magari non voleva intervenire, magari si voleva fare i cazzi suoi. Non so neanche cosa devo dire. Alla polveriera cosa succederà? Ah, il 1° maggio? No, sì, dai. È dopo anche. Anche dopo? Sì, il libro. Perché era una cosa. Ah, è perché non è che si capisce, cioè, alla polveriera c'è tante cose. A maggio è la primavera, sarà una pienissima di eventi, ma maggio. Dai, parto da quello del primo. Vabbè. Sì. 1° maggio abbiamo la festa Wombat presso la polveriera Spazio Comune. Dal pomeriggio in poi, e sarà un po' l'antipasto per l'evento dell'anno dello spazio della polveriera, che è il Festival di Letteratura Sociale, che saranno 4 giorni di editoria indipendente, non solo, vi saranno anche spettacoli, concerti, radiopresentazioni e quant'altro. Il programma è già disponibile sul sito della polveriera, c'è anche una pagina Facebook apposita. Ora io non me lo ricordo esattamente cosa c'è a memoria, ma però vabbè, insomma è consultabile già online, si troveranno già i volantini, locandine, eccetera eccetera. Bene, bellissimo, l'ho presa un po' larga da Proust, volevo arrivare qui, grazie ospite meraviglioso. Ah, capito il nesso. Vabbè. Non l'avevo capito, scusa. Oggi. Il nesso era questo, letteratura e musica latte, i libri. Poi letteratura in polveriera. Partecipatevi. Bene. E quindi altro rimando invece non a Proust ma e non ai libri ma alla danza è che un altro insomma un ingresso nel mondo della danza contemporanea la Pavana l'ha fatto, anche se vi sembra strano, grazie a Nureyev, che ha portato in scena The Moor's Pavane, anzi perché probabilmente in inglese, un balletto di 20 minuti basato sull'Otello di Shakespeare, con la coreografia di José Limón e musiche tratte da Abdelazar di Parcel. Vabbè, oggi sei on fire, Che bomba che t'hanno dato oggi, mamma. Basta, ho finito comunque, non so più di vabbè, insomma, accidenti, oggi ragazzi, via, oggi nulla. Ho studiato. Ho già studiato, non c'è vabbè, ho capito, mi fai parlare di musica antica. È vero, oggi era il suo, è tutta nel suo, tutta contenta. Che scherzo. Va bene, quindi sentiamocela, anche perché poi io ho finito i miei appunti, non so più cosa dirvi, e quindi vi propinerei questi 7 minuti di Maurice Ravel, La pavana per la infanta, per la principessa morta. Thank you. Bella, dai, no? Molto, dai, questa era anche abbastanza sì, accollabile, dai. Ma sì, ora, non è che noi abbiamo degli standard un po' particolari, però no, secondo me questa anche ai non così ai neofiti, dai, può andare, può piacere. Sì, poi ora vi facciamo riprendere con la seconda parte. Sì, dai, ora rock and roll. Allora, direi che io non ho fatto tutti i compiti bene come la Mari, oggi sono un po' scarsina, sono stata scarsina. Però vi vorrei dire che per quanto riguarda la ciaccona, il termine appunto così descrive, designa un tipo di danza caratteristica di origine cinquecentesca, quindi si parla sempre di questo periodo, spagnola o forse latinoamericana. Allora, questa cosa è buffa, si trova, cioè, ho cercato diverse versioni, insomma, della spiegazione della ciaccona e si ritrova sempre questa cosa, e quindi ora vi dico, quindi un tipo di danza, nonché quindi poi una forma musicale derivata dalla danza stessa. Cioè, la cosa interessante qui è che le origini di questa forma ciaccona sono proprio, cioè, nella danza, cioè non è la musica che ha dato, cioè che si suona una musica e dalla musica, no, come ci si balla sopra e quella diventa il valzer, no, per esempio. Certo. Qui è il contrario, cioè qui la danza, cioè la danza, in questo caso le teorie antropologiche e musicali individuano proprio la nascita di questa danza nel Latino America, quindi precolombiana, cioè se si vuole, capito? Cioè prima, cioè, non ce l'hanno portata, cioè sarebbero dei ritmi che gli europei arrivati in Latino America scoprono questi ritmi. Ma pensa! E da questi ritmi, chiaramente filtrandoli col gusto dell'epoca, nasce, cioè nasceva da una danza, dai, cioè è proprio, è questa la nascita della ciaccona, cioè non è, quindi la forma musicale nasce, pare appunto, trae origini da questa danza cinquecentesca e però nasceva originariamente in Centro America. Ora bisognerebbe studiarla un attimo, non ho capito benissimo, però diciamo questa è interessante la genesi della ciaccona, pare questa, insomma, diciamo le teorie più accreditate sono queste, quindi il tempo è ternario su un basso sincopato ostinato. E infatti è più danza, dai, è più questa danza, e in origine appunto ha un carattere vivace e scherzoso. Acquisisce poi in realtà tratti un po' più austeri, un po' più seri alla corte francese, perché i francesi devono sempre sciupare tutto, estrarre lo sbazzo che fa divertire solo i ricchi, tanto quelli sono così. Vabbè. E niente, alla corte francese, la ciaccona ha avuto un'evoluzione molto lunga in realtà nel tempo, perché è una forma che poi è stata usata a lungo e in tanti campi della musica classica, quindi ecco, è una delle forme più famose forse anche di quelle della musica antica che sono durate di più. Quindi la ciaccona appunto arriva fino alla, così, all'uso che la corte francese ne fa agli inizi del XVII secolo, quindi siamo già al XVII secolo, nel balletto, nell'opera e nelle suite strumentali. Quindi appunto diciamo in Francia ha questa declinazione un po' più austera, un po' più seria, meno scherzosa. In realtà appunto entra così a gamba tesa nel 1600 e poi nel 1700 e verrà usata nei balletti, nelle opere e nelle suite strumentali, quindi diventa proprio una forma comune, insomma, in voga. Il termine fu in realtà poi applicato a qualunque opera musicale che avesse un tempo moderato di tre quarti e che consistesse in alcune variazioni su una linea di basso, quindi diciamo, per capirsi, che poi il termine ciaccona è stato applicato anche a forme un po' diverse da come era la forma originale della ciaccona, fondamentalmente a quelle che avevano appunto un tempo moderato di tre quarti e una linea di basso. Nel 600 ci sono tantissimi esempi molto belli, molto interessanti di ciaccone. Una delle più famose è di Monteverdi, cantata, Zefiro Torna, Poi ce n'è una molto famosa di Heinrich Schütz, poi c'è sentiremo noi degli esempi, insomma, più nostrani, appunto Francesca Caccini, Bertali, Antonio Vitali, insomma, però diciamo che Bertali, esatto, però la sciaccona più nota, quando si parla di sciaccona, di solito la più famosa, la più nota, è quella che si trova nella seconda partita per violino solo di Johann Sebastian Bach. Quindi diciamo che in quella di Bach la linea di basso non è realmente presente, ma viene ricostruita dall'ascoltatore secondo il principio della polifonia immanescente, cioè quando si sente, diciamo, provare a spiegarlo, anche se non c'è la linea di basso effettivamente, perché c'è il violino, e paradossalmente però diciamo, l'udito è come ce la mette, la ricrea, perché fa un percorso logico che ora è un po' difficile spiegare, per cui ricrea mentalmente la linea dello strumento, anche se ne sente una, anche se sente solo un'altra bello linea. Molto bello, sì. Madonna, quante ne sapeva Bach? Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, ecco, diciamo che ci sono tantissimi esempi di sciaccone, è molto difficile decidere, scegliere. Così, per iniziare, io ho scelto ovviamente quelle che mi piacevano di più a me, chiaro. E soprattutto, andiamo, insomma, il primo ascolto che andiamo è la sciaccona di Francesca Caccini. La cecchina. La cecchina, allora, molto molto amata da noi, ovviamente, perché la cecchina è un personaggio particolare, perché è stata una compositrice, clavicembalista e un soprano italiano, la prima donna a scrivere un'opera e probabilmente la più prolifica compositrice del suo tempo. Che ragazzi, cioè, essere una donna alla fine del 1500 riuscire a scrivere, non era robetta, Che poi tra l'altro, cioè, poche ore, immaginatevi nel 500. E poi in realtà, essendo figlia di Giulio Caccini, poi in realtà si ricorda sempre Giulio Caccini. Esatto, Giulio Caccini è una delle figlie. Sì, però lei Caccini in realtà era prolifica tanto quanto lui. Anzi, dal forse punto di vista musicale. Sì, però ovviamente il padre è un uomo, quindi è passata la storia al padre e lei no. Un po', sì, un po' all'Artemisia Gentileschi come storia. Agli Uffizi lui c'è, lei no. Capito? Quindi, di fatto, noi invece ce la rivendichiamo, ovviamente, evviva il femminismo musicale, evviva, e non aveva nulla a che invidiare ai compositori del suo tempo, e adesso ve la sentirete. Questa è La sciaccona di Francesca Caccini. Vi vorrei dire anche l'anno, ve lo dirò. Non ce l'ho scritto io, però è fine del 1500. Sì, sì, sì, sì, fine 500 e la prima metà del 600. Però poi ve lo dico dopo l'anno, quando lo trovo. Sì, tra l'altro lei era una probabilmente delle cantanti dell'Euridice di Jacopo Peri, cioè che proprio eseguirono durante la prima a Boboli, era, se non sbaglio. Comunque sì, sì, sì. No, l'Euridice non è quella che è quella in Palazzo Strozzi per le nozze di Cosimo. Strozzi, scusa. Perché l'Euridice è quel, se non mi sbaglio, di Jacopo Peri, è quella che è considerata la nascita del teatro moderno. Sì, ora la collocava a Boboli. Era vicino al cortile Palazzo Strozzi per le nozze, vero, di Cosimo e Eleonora di Toledo. Non mi chiedete perché so queste cose, però lo so, perché l'ho dovuto studiare per forza. E si considera la nascita del teatro moderno. Certo che le sai, ma vorrei vedere. Sì, la nascita del teatro moderno a Palazzo Strozzi, il cortile di Palazzo Strozzi, è stato il primo momento in cui il teatro è rinato, perché dall'epoca greca e poi medioevo niente si considerasse teatro come noi lo consideriamo, in realtà c'erano delle cose, però. E quindi, capito. Allora, la sciaccona, che è bellissima questa versione, e quindi merita che io vi enunci tutti gli interpreti. Questa versione è stata registrata nel 2012 al Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Firenze. Local. Sì, beh, questa è proprio è nostra. Questa è tutta nostra. Sì. Luigi Cozzolino al violino, Andrea Benucci alla chitarra, Alfonso Fedi al clavicembalo, Francesco Tomei viola da gamba, e questa appunto è la sciaccona della cecchina. Thank you. Che bella! Molto bella, mi dispiace, ma questa proprio, guarda, io si sento per questa qui. Ora non voglio dire perché è scritta da una donna, poi pensate sempre cose. No, no, no, è proprio bella, anche se l'aveva scritta un rospo cane. Sì. Con la penna. Radio Wombat, Radio Wombat. Proseguiamo. Ma vi dico anche, vi leggo anche i social. Sì, sì, legga i Wombat, social. Perché sennò non ce li ricordiamo. Wombat.noblogs.org, il sito dal quale potete ascoltarci anche in streaming o in podcast se vi siete distratti. E la casella di posta, postawombat@insiberia.net. E ovviamente la nostra frequenza in onde mediocri, 1359 AM. E vi ricordo anche i nostri orari di trasmissione della Fuga del Gatto, la domenica ovviamente in diretta verso le 18:30 e poi a seguire abbiamo delle altre repliche il martedì alle 10 di mattina e il mercoledì alle 21, quindi se vi distraete sapete che potete risentirci più volte. Proseguiamo. Sì, allora, proseguiamo con un altro pezzo, un'altra ciaccona che ho scelto così tra le mille che ce ne sono e abbiamo, se non sbaglio, la ciaccona di Antonio Bertali. O Bertali? Ma che no. Ne so, ma anch'io mi sono un po' sdubbiata, ma secondo me si dice Bertali. Ma io dico Bertali. Come Bartali? Ma sì, io dico Bertali, comunque, scusi, non me ne vogliano gli eredi. Cioè, ottimo. Veramente. Allora, Antonio Bertali, o Bertali che dir si voglia, era un compositore e violinista italiano che nacque a Verona nel 1605, quindi insomma si parla dei primi del 600, il periodo ovviamente è quello lì. Diciamo che le sue composizioni sono nello stile di altri compositori dell'Italia settentrionale del suo tempo, quindi comprendono opere, oratori, molte composizioni da camera e diciamo che lui, siccome poi si trasferì a Vienna e morì anche a Vienna nel 1669, è uno di quelli che ha diffuso a Vienna la tradizione dell'opera seria italiana, che poi verrà recuperata da tanti altri autori, sia viennesi, insomma, sia nordeuropei, che poi portati anche da altri italiani, e anche dal nostro caro Antonio Salieri, se, come il nostro celeberrimo Salieri. Bellino. Ecco, il nostro così Misfits Salieri. E quindi... diciamo che lui ha appunto un po' questo onere e onore di aver diffuso appunto la tradizione dell'opera seria italiana a Vienna. Leggevo che circa metà della sua produzione è andata perduta, come diceva appunto prima la Mari, spesso succede, soprattutto con la musica antica, che le opere non riescono ad arrivare poi nel tempo. Ci restano però appunto delle copie trascritte e custodite insomma in varie abbazie sparse, così un po' gotica questa storia. Diciamo che in questa composizione di cui andiamo a ascoltare è appunto una sciaccona. In realtà non ne compose molte, credo che questa sia l'unica addirittura. Ciaccona in do maggiore per violino e basso continuo. Ed è una, però, quando si va a cercare la ciaccona così banalmente su internet, è una delle prime che si trova ed è effettivamente molto bella, è piuttosto caratteristica di quel periodo. Io non la... come dire, quella della Caccini mi piace di più a gusto. Sì, anche a me, devo dire. Però questa è un bellissimo esempio di ciaccona, fa capire proprio qual era lo stile, qual era così, comunque l'eccellenza del periodo. Sì, tra l'altro la versione che vi facciamo ascoltare non è proprio quella canonica, perché quella diciamo la versione normale dura all'incirca 8 minuti. In realtà questa è una versione un po' più ridotta, riarrangiata dal complesso L'Arpeggiata con Cristina Pluhar, che insomma è un arrangiamento molto molto bello secondo me, non proprio probabilmente filologico in qualche modo, ma un po' interpretato, ecco. Bellissimo comunque. Ciaccona in do maggiore per violino e basso continuo, come dicevamo prima, appunto tipicamente il basso continuo era tipico appunto in questa forma. Thank you. Era uguale, copione. Scopiazzato, copione, maschi sempre copioni e poi si prendono il merito. Va bene. Stop alla polemica, andiamo avanti. E qui, ragazzi, vabbè, qui Mari, qui non ti insegno nulla. Cioè, qui, che vuoi fa? Sì, qui è bello. E qui è bello bello. Un duetto. Sì. E cambiamo un pochino, perché finora abbiamo fatto sentire solo cose, versioni strumentali, composizioni strumentali. Qui invece c'è una sciaccona cantata, però. Una sciaccona cantata. Era un esempio che volevamo far sentire, perché appunto è così, per far sentire anche la sciaccona cantata. Vabbè, io e la Mari siamo un po' di parte, perché diciamo che a noi ci piace molto questa sciaccona qua, in particolare questo autore, ma in generale questo pezzo in particolare, molto bello. È una sciaccona di Monteverdi, e si chiama appunto, è titolata Zefiro Torna. Questa versione è in particolare cantata da, così, l'idolo. L'idolo della Mari. Diciamolo. Uno dei, però un po'. È bravino. Eh sì, e non so, diciamo questo, ci sarebbe questo Monteverdi, non starei a rifarvi come sempre, insomma, il pippone. Questa è la versione sempre dell'arpeggiata, se non mi sbaglio. Sì, sì, ecco. Sempre con Cristina Pluhar, che dirige in questo caso, e poi il duetto è formato sì da Filippo Cherosky insieme a Nuria Rial, che è l'altra, credo sia un mezzo soprano, non lo so, sì. Non lo so, comunque. Sì, appunto, non vi starei a fare troppo così, troppo pippone. E diciamo che, per chi non avesse mai sentito le puntate che abbiamo fatto sulle voci... le voci, no? Tutto il problema scastrati, voci bianche, diciamo che questo interprete Jaruski è uno dei pochi che adesso riesce, cioè ha una voce maschile però molto molto espressiva, molto, che si avvicina molto a questo grosso lato di femminilità, se vogliamo. Sì, è molto androgeno, e tra l'altro devo dire, la cosa che me lo rende, insomma, che me lo fa apprezzare moltissimo, è che è tecnicissimo, cioè proprio è impeccabile. Sì. Tranne ogni tanto le sbavature, ma qualche... poveraccio, che deve fare? È oggettivamente, cioè, insomma, è una questione proprio anche fisica, ha una voce pazzesca di suo, che giustamente, insomma, riesce a poi anche condire con una tecnica molto buona. Per cui, siccome appunto di virtuosismo si parla in tempi barocchi, è giusto anche, secondo me, anche adesso, nel 2019, comunque approcciarsi a questo tipo di musica con un certo, cioè, di fatto con delle pretese un po' alte, ecco, mi sento di dirlo, perché senza ovviamente, cioè, è giusto ovviamente buttarcisi, però rende molto di più quando c'è un rigore e un'attenzione proprio al millimetro di ogni singola intonazione, di ogni singolo passaggio, altrimenti è un po' buttata lì, ecco. Ecco, sì, questo pezzo è particolarmente bello perché il testo anche appunto è molto evocativo, molto bello. Zefiro torna, di suave accenti, appunto parla appunto di questo risveglio proprio, no? Di questo risveglio della natura, di verdi fronde, i prati fioriti, insomma è molto evocativo il testo. Chiaramente il modo di cantare cioè, per chi non è abituato all'orecchio è difficile percepire proprio le parole esatte, perché appunto, come diceva la Mari, il virtuosismo, il modo di cantare, no? Tipico, quindi va contestualizzato nell'epoca, siamo nel 600 e non era l'opera quella a cui siamo abituati. No, anche se fa parte del virtuosismo farsi capire, quindi anche questo è un bel campanello d'allarme. Se non capite cosa dicono, vuol dire che non sono bravi. Preoccupatevi. E quindi però chiaramente è più, non è appunto il testo conta, ma è chiaro che è il modo di cantarlo che fa la differenza, no? Questo certo, un po', ecco, certo, che certo. Perché la voce diventa uno strumento effettivo, vero e proprio, dovete pensare che siamo in un'epoca in cui non c'erano le grandi orchestre, cioè gli strumenti ancora erano alla loro, così appunto alla loro archeologia, come diceva prima la Maria, erano veramente insomma nel 600 già insomma si aumentava un po' l'organico, però non dovete pensare insomma che avessero a disposizione le orchestre, sinfonia, certo. Ecco, quindi la voce a maggior ragione nell'epoca barocca era usata ancor di più come uno strumento musicale. E quindi ecco, questo è un bellissimo esempio di appunto di questo grandissimo autore e di questi grandissimi interpreti. Sì, tra l'altro il duetto è uno di quei momenti in cui si può apprezzare appunto la sinfonia tra virgolette tra due voci, perché appunto proprio perché non si ha a disposizione moltissimi strumenti, ma anche due voci sono in grado di regalare una varietà e un movimento notevole, ecco, incroci e arditi. Su Claudio Monteverdi non vi starei a insistere, no, cioè, no, poi dai. Tanto faremo sicuramente altri ci torneremo. Sentitevela. Oh, Eccoci. Vabbè, molto bello. Come avrete sentito, per chi non ha l'orecchio al naso, è difficile distinguere la voce maschile da quella femminile, perché come dicevamo, questo interprete è un po' l'erede, secondo me, di quella tradizione che era nel 600 costume. Sì, era costume, cioè che gli uomini avessero, che gli interpreti maschili avessero questo tipo di voci. Eh sì, si confondevano i ruoli maschili e femminili, esatto, erano quindi confusi. Ora è difficile trovare interpreti perché è cambiato, insomma, per tutti i motivi che abbiamo già raccontato nelle puntate sulla voce. Però appunto lui, per esempio, questo interprete Wieczorowski, è uno di quelli che appunto ha questa bellissima capacità vocale di rendere sia il maschile che il femminile. E cantando qui con una donna quasi si fa fatica a confondere qual è la, insomma, a capire qual è la donna, secondo me. Non ha qual è la voce femminile, che talmente appunto caratteristiche femminili ha questa voce di questo cantante, e che si adattano perfettamente al canto di questo tempo, cioè delle opere scritte in questo tempo. Sì, in realtà un po' tutti i controtenori, però effettivamente appunto Wieczorowski c'è un motivo per cui ve lo propiniamo sempre, perché comunque è particolarmente azzeccato, almeno secondo noi, insomma, particolarmente bravo. E sì, ecco, finiamo io con finiamo, l'ultima. Vi lasciamo perché dura un po' con l'ultima. Quindi che facciamo? Salutiamo prima? Salutiamo la curva? Sì. Sì, sì, perché con questa vediamo la. No, buonanotte, no, dai, è presto. No, però insomma, vediamo, vi liberiamo. Vi liberi tutti, liberi tutte. E, sempre. Bene, ecco, l'abbiamo già introdotta prima, la sciaccona di Bach, che è parte appunto della partita numero 2 per violino, che dire, è celeberrima, veramente famosa, probabilmente quando la sentirete vi accorgerete di averla già sentita, perché Bach aveva studiato il violino fin da giovane, e prima di diventare clavicembalista e organista fu un ottimo e apprezzato violinista lui stesso, proprio esecutore. Nonché organista e riparatore d'organi. Organista e riparatore, ma vabbè, qui vi rimandiamo alle varie puntate su Bach, veramente. Bach sta alla musica come, boh, non lo so. Morì di Botticelli alla pittura, poi, ma no, anche di più, Leonardo, dai. Leonardo. No, a me piace più, piaceva Botticelli, sì, vabbè, sì. Botticelli. E oggi è così. Va bene, e quindi direi che non vi tedio oltre, abbiamo già descritto questa sciaccona, appunto, che è particolare perché non ha la linea di basso inserita, però, come dicevamo, l'ascoltatore riesce comunque a compensare proprio per questa capacità matematica veramente di Bach di riuscire a comporre, a soppesare e a introdurre i suoni in una maniera veramente direi magica, ma veramente in senso proprio esoterico del termine, cioè veramente, e che ha appunto, che trova le sue basi nella matematica e insomma e in tutto quello che sappiamo già. Questa appunto è la sciaccona più famosa. Quando cercate le sciaccone, questa è la prima che viene, e questo appunto è partita numero 2 in re minore, e che si apre in realtà con una Allemande, una danza di origine tedesca da ritmo moderato, e poi va a evolvere e diciamo nella sua ultima parte, dalla seconda parte in poi, nella sua ultima parte, la celeberrima sciaccona che chiude la partita in re minore. Come vi dicevo appunto, questa danza, così Bach riprende avvio da un tema di 8 battute e prosegue con un corale di 32 variazioni, perché ovviamente Bach non la poteva fare semplice, e quindi questa è una sciaccona però alla maniera di Bach, quindi insomma ovviamente alla sua maniera, alla sua capacità. Va ricordato che della sciaccona per violino esistono solo trascrizioni per pianoforte fatte da Brahms e da Busoni, in quale impresse un po' alla rivisitazione bachiana un respiro un po' possente, un po' forte, diciamo, un po' più trascendentale rispetto a quello che era magari l'originale di noi non ci piace. E infatti, esatto. Dai, ma perché? Cioè, c'è una cosa bellissima. Devi... Ma chi le riscrive, poi chi le trascrive lo sai. Ci devi andare tipo lottatore di sumo, no? Cioè, ci caschi sopra. È così. Però insomma, ecco, è anche un modo per provare i violini, e i violinisti virtuosi affrontano sempre questo pezzo. Ughi l'ha fatto, insomma, tutti i grandi violinisti lo fanno, perché è veramente un pezzo per violino. La partita numero 2 è un pezzo per violino che include appunto la sciaccona, è un pezzo per violino molto difficile, molto, bisogna essere veramente dotati per farlo bene. Sì, penso sia, non, oltre alla velocità, anche proprio l'intonazione sia difficilissima, sì, su sì, questo. Sì, veramente, quindi ecco, è un pezzo su cui i musicisti si provano sempre. Si spellano le mani. Beh, sì. Vi lasciamo all'ascolto e così. Pezzo del 1720, BWV 1004, questo è il numero di catalogo, e una versione che vi facciamo sentire del 1997, e al violino c'è Hilary Hahn. Ho scelto questa, mi piaceva, ve la proponiamo. Ciao a tutti, alla prossima domenica. A domenica, ciao ciao. Ciao. Thank you.